24 mattino. Pongo in votazione la mozione Fregolent ed altri numero 1-1731, così come riformulata su richiesta del governo, su cui il governo ha espresso parere favorevole. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 409, votanti 310, astenuti 99, maggioranza 156, favori 213, contrari 97, la Camera approva. L'energia elettrica dei Clash, il punk che rompeva sulla scena europea, è la battaglia che inizia in Parlamento con questa mozione, con questo voto che avete sentito dalla voce del vicepresidente della Camera Roberto Giachetti. E sì, si è aperta una grande battaglia perché il PD ha sfiduciato, prima con un testo più esplicito, poi meno esplicito, il governatore della Banca d'Italia, Visco. Le conseguenze sono enormi, il dibattito è grandissimo e quindi bisogna iniziare subito con la rassegna lampo dei titoli. Banca Italia, il PD contro Visco, La Stampa, Stefano Lepri, editoriale, in Via Nazionale, la battaglia delle regole. Serve una figura più idonea, chiede il Partito Democratico, Renzi, se però Mattarella lo vuole, noi accetteremo. Sì, perché è pieno di retroscena in cui Renzi oggi giustifica questo strappo. Banca Italia, duello fra Partito Democratico e Colle, l'apertura di Repubblica, mozione contro il rinnovo del governatore, gelo di Mattarella, rispettare i ruoli e il bene del paese. Renzi sfida sia Gentiloni che il Quirinale, lo vogliono, facciano loro, questa è la frase chiave, facciano loro, Visco, sono pronto a parlare nella commissione sulle banche. E allora i due fondi, ben due, di Repubblica, le sassate populiste in campagna elettorale di Massimo Giannini e poi un intervento della Cattaneo, di Monti, di Renzo Piano e di Carlo Rubbia, la dignità e la vita ferma in Parlamento. Si tratta ovviamente di una legge di cui non si discute. Vinciamo! Il Corriere dello Sport suona la gran cassa con una foto di Nainggolan, perché stasera è Champions per chi segue il calcio, ma questa sfida europea iniziata ieri col Manchester City a Napoli è anche una metafora della nostra difficoltà, la difficoltà dell'Italia in Europa. Allora, Avvenire apre su un altro tema importante, ci dà l'occasione di parlarne: strappata la bandiera nera. C'è una foto di un carro armato, c'è gente che festeggia. Sì, Raqqa è libera. Se ne vanno quelli dell'ISIS, meno male. Libero. Il disappunto di Padoan. Gli italiani non muoiono mai. La teoria del ministro per giustificare il vaffa dell'esecutivo ai pensionati: state al mondo troppo tempo. Ma nel resto d'Europa vivono quanto noi, però si ritirano ben prima. Taglio delle tasse, altro vaffa del titolare del tesoro, lo fa il mio successore. Però, a parte la libertà di stile, Padoan non ha dato nessun vaffa, è vero che ha aperto a questi dibattiti sull'età pensionabile. Scontro istituzionale fra Mattarella e Renzi per cambiare il governatore di Banca d'Italia, e il fondo è di Vittorio Feltri. E il Fatto Quotidiano, l'apertura tecnicamente, cioè il primo pezzo in alto, è sull'Appendino. Indagata l'Appendino, tolto un debito dai conti del comune. E la seconda apertura, codice antimafia fatto coi piedi, lo dice il Colle. E poi anche qui il tema: Renzi e Boschi attaccano Visco, nella sintesi del Fatto, per nascondere Banca Etruria. Il fondo di travaglio però è sulla legge elettorale, se ci arrivo vorrei leggerlo. La Verità, apertura del tutto anomala: tassa europea sui terreni e sulle case. La mossa è diabolica, spiega Carlo Cambi. Anziché colpire direttamente le abitazioni, si istituisce un affitto da pagare per l'occupazione del suolo. È uno studio preparato dalla Francia, pensate, per l'Italia. Poi vedremo di che si tratta. Il Giorno. Siluro a Banca Italia. È il titolo di apertura, l'editoriale di Andrea Cangini. Matteo solo contro tutti, Renzi attacca Visco, mozione del PD contro il governatore in scadenza, un colpo anche a Gentiloni che lo aveva ricandidato. Mattarella no alle ingerenze sull'autonomia degli istituti. Il Giornale, che parla invece di un tema che abbiamo trattato più volte: il codice antimafia e legge, più confische per tutti, corrotti come i boss, ma Mattarella chiede un pugno ancora più duro. Guerra Banca Italia, il PD scarica gli scandali su Visco, il catenaccio del Giornale, ma il fondo è sulla politica Alessandro Sallusti. Sono le politiche, le elezioni politiche ovviamente, le primarie del centrodestra. E andiamo al tempo, passo falso, dove si parla dell'Appennino con una foto della sindaca di Torino. Ma attenzione, c'è una notizia che riguarda anche la Raggi. L'antitrust boccia la maxi gara di Virginia, la leggeremo perché mi sembra che di averla vista solo sul tempo. L'ultimo giornale che leggo è l'album di Repubblica, La grande bellezza, arte e benessere nella capitale, c'è una foto splendida di Roma. E attenzione, Il Sole 24 Ore, polizze vita, attenzione, spunta un prelievo del 2 per 1000. Nel bilancio una nuova imposta di bollo con gettito stimato di 194 milioni di euro nel 2018. Ma ovviamente Il Sole apre su Banca Italia. PD contro Visco, ora serve una fase nuova, il Colle si tratta di un'ingerenza politica, il fondo del direttore Guido Gentili, concerto non muscoli, dove il concerto ovviamente è il bisogno di concordare mosse istituzionali e non quello di mostrare i muscoli, secondo il direttore del Sole 24 Ore. C'è un dibattito, processo l'economia, molto interessante, sul Sole, il bello dell'equilibrio precario, Francesco Silos Labini, visioni meno riduzioniste di persone e valori, di Leonardo Becchetti, i grandi dibattiti sull'economia. E allora cominciamo oggi, prima di andare in pausa, con questa notizia, la notizia del giorno, e parto dal Corriere della Sera, per darvi le coordinate che vi spieghino che cosa è successo. Oh, il Corriere della Sera sta di là, allora lo recuperiamo. Ma iniziamo da De Marchis. Lo strappo di Renzi con Mattarella, lui e Gentiloni vogliono tenerlo, lo facciano, ma non in mio nome, not in my name. Se vogliono ancora Visco, racconta Renzi, raccontato da De Marchis, Gentiloni e Mattarella lo facciano loro. Matteo Renzi ha appena finito di parlare al telefono con il Presidente del Consiglio. Era a Civita Castellana. Racconta ai suoi collaboratori rimasti a Roma in una tappa del suo viaggio in treno. I due si spiegano. Trovano a fatica una formula di compromesso in grado di rispondere e risparmiare al Paese una clamorosa spaccatura fra governo e partito di maggioranza sulla rimozione del governatore di Banca Italia. Con Palazzo Chigi si mette una pezza alla fine di una giornata molto difficile, almeno sul piano formale. Con il Presidente della Repubblica no, assolutamente no, lo strappo con Renzi è definitivo, suggeriscono fonti attendibili del Colle. Al Quirinale, racconta ancora De Marchis, per tutto il pomeriggio risuona più volte la parola eversione. Un ribaltamento delle regole istituzionali, tutto addebitato al segretario del PD, una sfida in piena regola alle prerogative del capo dello Stato e soprattutto una scelta praticamente già fatta dallo stesso Mattarella che viene contestata, cioè confermare alla guida di Via Nazionale Ignazio Visco, il cui mandato scade fra 2 settimane. Se qualcuno pensava di affossarlo, adesso lo ha rafforzato, e questo è il concetto attribuito a Mattarella fuori dalla grazia di Dio. Nessuno del PD aveva avvertito il Colle e Palazzo Chigi della mazzata in arrivo. Andava letto questo incipit perché vi dà l'idea di quale sia il tema, e infatti su il Corriere della Sera, era questo che mi interessava, il retroscena di Maria Teresa Meli è come completamento di quello che stiamo raccontando. Renzi è la mossa, decisa in gran segreto, lo confermino pure, ma io non avallo. Renzi sa che questa presa di posizione non fermerà la riconferma di Visco, ma vuole che sia chiaro, scrive la Meli, che il PD non avalla quell'operazione di nomina. È determinato, vuole evitare che il partito venga coinvolto nuovamente in maniera strumentale in prossimità delle elezioni nelle vicende delle banche. E tanta determinazione ha indotto i vertici del Nazareno a decidere l'altro ieri la linea della mozione, un blitz condotto con grande riservatezza. Tant'è vero che a Palazzo Chigi sono venuti a conoscenza dell'iniziativa solo ieri mattina, quando il gruppo del PD ha iniziato la raccolta di firme per la mozione. Allora capite, una mossa in segreto. L'unica concessione che il segretario ha fatto in mattinata, al chiacchiericcio, tra virgolette, una parola sua, ha riguardato gli obiettivi elettorali. Il traguardo di Renzi è il 40%. Su quello il segretario del PD metterebbe la firma. Abbiamo già raggiunto quell'obiettivo due volte, ha spiegato, e non c'è due senza tre. Allora, il convincimento di Renzi è questo, sempre la Meli sul Corriere della Sera a pagina 6. Anche se è prevedibile, osserva con qualche amico, che una parte della sinistra estrema scenderà in campo per conto suo, il problema è capire che cosa farà Bersani. Perciò il leader del PD dice «niente veti» quando gli si chiede di una possibile alleanza con MDP. Riusciremo a fare una coalizione più ampia di quanto si possa immaginare. E Renzi sta praticamente cercando di aprire un fronte con MDP. E ieri Bersani a carta bianca in qualche modo parlava proprio di questo, cioè di questo forcing per cui il Partito Democratico vorrebbe averli alleati anche se a denti stretti, anche se con la faccia cattiva, diciamo. Nessun risentimento, nessun rancore. Siamo intenzionati a discutere col PD. Ma poi per amor di Dio non sentirete aprire una parola contro un'idea di centrosinistra. Non sentirete una parola contro un'idea di centrosinistra. Si può discutere prima delle elezioni solo se c'è una legge elettorale che ci consenta di raffigurare un confronto vero. Allora, vi dicevo il fondo del Corriere della Sera è di Francesco Giovazzi, entrata a gamba tesa, inutile e dannosa. E sentite questo, la discontinuità nella guida della Banca d'Italia, che ha invocato ieri il PD in Parlamento, pur con un successivo apparente ripensamento, ma ormai il danno era fatto, scrive Giovazzi, arriverebbe nel momento peggiore. Un'entrata a gamba tesa della politica e negli anni passati è stata a causa dei guai del credito. La bagarre che si aprirebbe con tutto il portato di polemiche legate a casi come quello di Popolare, Etruria, che hanno creato problemi proprio al PD, avrebbe l'effetto di dare un duro colpo alla reputazione che stiamo a fatica riconquistando in Europa. E non illudiamoci che quella bagarre, dice Giovazzi, e i compromessi che inevitabilmente l'accompagnerebbero possa produrre scelte sagge. Pubblicità. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma mi volete rilassare? Mannaggia. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister I. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino. Rieccoci. Allora, qualcuno dice: ma non stiamo parlando troppo di politica questa mattina? Beh, sì, ma in questo momento, con la vicenda Banca Italia, parliamo di politica, di economia, di mercati, parliamo quindi del cuore pulsante di tutto quello che accade in questo paese. Questa è una radio che parla a tutti coloro, in alto, in basso, umili o coltissimi, hanno a cuore le questioni della classe dirigente e del paese. Allora chiudo la rassegna stampa degli editoriali su Banca Italia con due lampi. Massimo Giannini, le sassate populiste in campagna elettorale, in cui l'editorialista di Repubblica, pagina 29, dice: c'è da chiedersi quanto sia credibile questo PD renziano di lotta e governo che finisce per recitare troppe parti in commedia. Come fai a chiedere la testa del governatore che non ha vigilato, tra virgolette, quando hai nell'armadio lo scheletro di Banca Etruria e di Papa Boschi? Come fai a contestare il rigore morale e amministrativo di Via Nazionale quando hai tenuto per mesi a Palazzo Chigi come consulente il procuratore di Arezzo Roberto Rossi, che stava indagando proprio su Banca Etruria? E poi il fondo di Lepri, in Via Nazionale la battaglia delle regole, sulla stampa. Chi tocca Banca Etruria muore? La mossa a sorpresa del PD contro il governatore Visco, ispirata da Renzi, può essere letta in due diverse maniere. Una è tutta politica, costi quel che costi, non lasciare la polemica contro i crack bancari alle opposizioni, Movimento 5 Stelle in testa. L'altra, la vendetta per aver messo in difficoltà l'entourage toscano del segretario del PD. Questa è interessante, queste due letture, queste due domande sono quelle che capire, fondamentali per capire tutto. Allora andiamo al Messaggero, perché c'è la vicenda dell'Appendino. La vicenda dell'Appennino è interessante. Alla fine tutti i principali amministratori del Movimento 5 Stelle, fateci caso, per una cosa o per un'altra, sono stati messi sotto inchiesta. E allora ecco l'apertura del Messaggero: Appennino indagata per falso, IPM, manca un debito nel bilancio. E sto leggendo Giacomo Nicola all'apertura di pagina 8, che ci racconta cosa è successo. Avevo deciso spontaneamente di venire qui oggi per chiarire quelli che sono i fatti e insomma abbiamo raccontato oggi quanto è accaduto, piena fiducia nella magistratura e insomma siamo qui per chiarire quello che abbiamo fatto, abbiamo agito nell'interesse della città come ho già detto oggi. Allora, è la seconda volta che le capita, scrive il Messaggero. La prima inchiesta riguardava i fatti di Piazza San Carlo, quando per il fuggi-fuggi fra la folla ci furono una vittima e 1526 feriti. Con l'Appennino sono finiti sotto accusa anche Sergio Rolando, assessore al bilancio, e capo di gabinetto Paolo Giordana, uomo forte di questa giunta, aggiungo io. Ieri mattina sono stati notificati gli avvisi di garanzia per la vicenda Ream. Sono serena, ha detto l'Appennino, e pronta a collaborare con IPM. Desidero essere ascoltata il prima possibile per chiarire tutti gli aspetti di una vicenda complessa relativa all'individuazione dell'esercizio di bilancio al quale imputare un debito che questa amministrazione non ha mai, dico mai, voluto nascondere. E già, ieri pomeriggio, scrive il Messaggero, è stata ricevuta in procura dal PM Marco Giannoglio per essere interrogata. Oltre a chiarire la sua posizione, l'Appennino ha consegnato un plico di carte. Vi dicevo che sul Tempo è raccontato di un altro guaio giudiziario che si addensa sulla testa della Raggi ed è una bocciatura, annuncia il quotidiano diretto da Gianmarco Chiocci. L'antitrust boccia la maxi gara di Virginia. Nel mirino, infatti, dell'autorità c'è il bando da 475 milioni sui servizi indetta dal Primo Cittadino. L'autorità ha dato parere negativo e il 25 ottobre la parola passa al TAR. La prima decisione, racconta Augusto Parboni, pagina 3, è stata presa. Una delle tre grane per il Primo Cittadino della capitale, Virginia Raggi, è stata risolta, ma non a favore del sindaco. Anzi, l'antitrust, infatti, si è pronunciata riguardo alla maxi gara bandita per le amministrazioni romane dal Dipartimento Scuola del Comune di Roma, che prevede ausiliario, trasporto, pulizie, verde e manutenzioni. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato parere negativo sulla gara contro la quale sono scesi in campo 5 associazioni rappresentative della Confartigianato Imprese di Roma. E quindi è un'altra querela, ma la domanda è: ma ci rendiamo conto che tutte queste cose arrivano con un conto alla rovescia in direzione del voto? E è necessario parlare di quello che è successo a Racca? Beh, ovviamente sì, signori, è quasi nelle pagine dei giornali italiani è quasi nascosta perché c'è tutta questa ira di Dio, ma l'ISIS non è più una potenza militare. E allora andiamo a Racca con il racconto di Cremonesi, Lorenzo Cremonesi. La foto è quella bella di miliziani che sventolano le bandiere, ma in mezzo alle rovine, alle macerie, alla distruzione totale, le forze curdo-siriane strappano ai jihadisti la loro capitale. Oltre 2000 civili uccisi in battaglia. ISIS non c'è più. Per come lo abbiamo conosciuto, racconta Cremonesi, questo criminale movimento dell'estremismo islamico perde ciò che più lo caratterizzava rispetto ad Al-Qaeda e agli altri gruppi jihadisti nella nostra era, la dimensione territoriale. La sua capitale oggi è in un cumulo di macerie, i suoi militanti siriani arresi con le famiglie, quelli più pericolosi, i volontari stranieri morti a centinaia nell'ultima battaglia, senza speranza per difendere la loro capitale. L'annuncio della presa totale di Raqqa ieri mattina ha segnato un momento cruciale nella lotta contro il terrorismo religioso sunnita, nato e cresciuto nel Medio Oriente post 2001. Preso l'ospedale centrale lunedì mattina, debellati poi ieri entro mezzogiorno i nidi della resistenza nella gigantesca struttura dello stadio municipale. Le bandiere gialle con la stella rossa dei curdi hanno cominciato a sventolare ovunque. E questo è un grande giorno perché la vittoria contro uno Stato pirata, uno Stato terrorista, uno Stato che fomentava il terrore, è una di quelle notizie per cui noi questa bandiera dovremmo sventolarla pure noi. Strade in diretta. Ciao papà, sei un bel... Mattino. E allora cambiamo ancora tema. Vi dicevo che l'editoriale del Fatto oggi è sulla legge elettorale e vorrei leggere solo la conclusione di questo lungo attacco di Marco Travaglio al Rosatellum. Travaglio si sofferma sui motivi per cui ci sono tanti nominati, l'elettore non sceglie, cita a lungo e difende la posizione di Zagrebeschi e partiamo da qua. Eccolo qui. Dunque, a meno che la Consulta non smentisca se stessa, il Rosatellum finirà come il Porcellum e come l'Italicum. Sarà raso al suolo, ma solo dopo aver prodotto un nuovo Parlamento illegittimo, che a sua volta avrà figliato un nuovo governo illegittimo. Chi può deve fermare questi golpisti e lo sa benissimo. Ora deve scegliere se fare il suo dovere o fare il palo. Però attenzione, perché la legge ancora non è stata votata al Senato, infatti molti pezzi raccontano delle manovre perché si raggiunga la fiducia al Senato, forse con il soccorso dei verdiniani. Una notizia di cronaca, a pagina 21 del Corriere della Sera: sola contro 25 ragazzi, pensate, 25 ragazzi italiani che la volevano aggredire a Firenze, Gaia, e pensava di essere stuprata e racconta di essere stata circondata e molestata. Bene, nel racconto di Marco Gasperetti il Salvatore ha una faccia imprevista, è stato un venditore di rose che è arrivato con molto coraggio, si è frapposta fra lei e i suoi aggressori. Di notte, in una strada di una Firenze che non conosceva, Gaia è stata circondata da 25 ragazzi, ubriachi, che si avvicinavano urlando, minacciandola, le sputavano addosso. Si è messa a tremare come una foglia. Gaia Guarnotta, 25 anni, livornese, professione fotografa, è una tosta, coraggiosa, decisa. Ma stavolta mi sono messa a piangere come una bambina, racconta. Ero disperata perché quelli che potevano essere i miei coetanei mi insultavano, mi minacciavano, mi tiravano addosso bicchieri di plastica, mi urlavano stupida puttana, si vede che ci stai, vedrai, ti faremo godere, e altre volgarità di questo tipo. Qualcuno si divertiva a riprendermi col telefonino, sembravano indemoniati. Mi sono coperta il volto credendo di essere sopraffatta. C'era gente che passava e non muoveva un dito per difendermi. E poi è arrivato quest'uomo. L'angelo è un venditore ambulante di rose, si chiama Hossein, nato nel Bangladesh, ha visto quei ragazzi e gli ha detto: levatevi di torno perché altrimenti avremo chiamato la polizia e per voi finirà malissimo. Così dice Hossein, e questo urlo, questo frapporsi fisicamente ha impedito questo stupro. Ma è una follia quello che sta accadendo in Italia, oppure no? Io penso di sì. E ancora un volta pagina sul Tempo, la Boldrini, c'è tutto un articolo godibile anche per chi non è d'accordo col Tempo sulla guerra del vocabolario politicamente corretto. E poi sulla Verità ancora un pezzo sulla lingua, Mario Giordano, che racconta che cosa accade se il politicamente corretto entra anche nel linguaggio giornalistico. Lo segnalo: breviario per articoli sessualmente corretti. La Boldrini mania, racconta Giordano, contagia il sindacato dei giornalisti e arriva il Manifesto di Venezia, che impegna i nostri colleghi a evitare termini offensivi nelle cronache. Bisogna abolire, secondo questo manifesto, presunti stereotipi come gelosia, passione e amore. Ma allora domando, che cosa raccontiamo? Ha ragione Giordano. Passiamo all'economia. Allora, vi dicevo, il fondo del Sole 24 Ore è su Banca d'Italia e c'è una presa di posizione molto netta del direttore Gentili, che si chiude così: il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'interesse della situazione economica dell'Italia e della tutela del risparmio degli italiani, segna a sua volta una posizione altrettanto chiara, prima ancora delle persone difende un metodo, quello attraverso il quale appunto si cerca di tenere la Banca d'Italia al riparo dalla lotta fra partiti e nei partiti. C'è una commissione d'inchiesta al lavoro in Parlamento, bene, dice Gentili, Sole 24 Ore, prima pagina, si lasci lavorare questa in autonomia. Nell'interesse del paese non ci sono altre manovre o prove di forza politiche da consumare sulla pelle della Banca d'Italia. E questo lo leggo qui perché al Sole 24 Ore interessa anche in questo momento un quotidiano che ha una lettura economica, le ripercussioni sui mercati, degli equilibri che poi preoccupano molto il Quirinale. Allora, vi dicevo che Marco Mobili a pagina 3 racconta di questo prelievo del 2 per 1000 sulle polizze vita. Le polizze vita, come sapete, sono anche una fonte di risparmio degli italiani. E questo piccolo prelievo, apparentemente piccolo, il 2 per 1000, dovrebbe produrre un gettito di 194 milioni. Quindi praticamente è una tassa. Allora, sentiamo cosa dice Mobili nell'attacco. Una mini patrimoniale sulle polizze vita a capitale garantito. È l'imposta di bollo del 2 per 1000 applicata dal 1 gennaio 2018 alle comunicazioni inviate dalle compagnie assicurative ai clienti che hanno una polizza vita nel ramo. Lo prevede la bozza del DDL di bilancio a cui stanno lavorando i tecnici di Palazzo Chigi e del Tesoro per definire il testo approvato lunedì scorso e destinato ad approdare al Senato la prossima settimana. Secondo le prime stime, questa misura garantirebbe all'erario nel 2018 194 milioni in più e 202 milioni di euro a partire dal 2019. Il nuovo balzello, sulla cui introduzione le riflessioni, soprattutto politiche, sono in corso, va a completare il pacchetto di maggiori entrate della manovra che faranno perno sul rinvio dell'IRI al 2019. Una misura che vale 2 miliardi, e sull'obbligo, ci racconta Marco Nobili sul Sole, della fatturazione elettronica fra privati, anticipata al 1 luglio 2018 solo per carburanti e subappaltatori. E questa misura vale 200 milioni di euro. E vi dicevo, sempre per quel che riguarda le notizie economiche, che c'è una cosa molto importante, la leggo da Repubblica, ed è l'affossamento definitivo, qui stappiamo lo champagne, della cosiddetta legge salva abusivismo. Il DDL Falanga torna in commissione ma di fatto non passa. Maledetti assassini, basta, casa a casa, le urla di una quarantina di abitanti di Casola di Napoli, comune campano, alto tasso di abusivismo edilizio, piovono dalle tribune di Montecitorio proprio mentre Laura della Camera mette una pietra definitiva sopra il DDL Falanga. Questo parlamentare del gruppo verdiniano aveva proposto una misura che consentiva di legalizzare alcune delle costruzioni abusive. Ebbene, il ministro Franceschini è intervenuto e ha prodotto questo affossamento. Adesso ha la minaccia: o questa legge viene recuperata oppure non voteremo la fiducia. E vai, un altro thrilling. Ci fermiamo ancora e poi torniamo con i cani e con i gatti.